24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano i rapporti tra Italia e Francia con il summit tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente Nicolas Sarkozy a Roma. Immigrazione ed economia i temi principali. Parigi incassa il sì italiano alla revisione di Schengen. Tra poco tutti i dettagli. Vi parleremo anche dei nuovi timori sull'economia greca e ricorderemo la tragedia di Chernobyl che ha riacceso i timori in Europa sul nucleare. A chiudere il countdown sulle nozze reali in Gran Bretagna. Apertura del nostro notiziario dedicata al vertice italo-francese a Villa Madama a Roma. Grandi attese alla vigilia con immigrazione caso Parmalat e nucleare tra i temi in primo piano. Sull'immigrazione unità di vedute tra i due paesi. I dettagli nel servizio. Dopo le tensioni a Ventimiglia sull'immigrazione e pace fatta fra Italia e Francia nel vertice di Villa Madama, i due paesi hanno concordato sulla necessità di rivedere l'accordo di Schengen, ha spiegato il premier Berlusconi, che ha dato atto alla Francia di aver fatto sull'accoglienza uno sforzo 5 volte superiore a quello italiano. Nessuno di noi vuole negare Schengen, ma in circostanze eccezionali noi crediamo entrambi che ci debbano essere delle variazioni del trattato di Schengen a cui abbiamo deciso di lavorare insieme. Fra Parigi e Roma c'è pieno accordo anche sulla guerra in Libia, hanno sottolineato Sarkozy e Berlusconi. Quest'ultimo ha assicurato che l'Italia bombarderà solo obiettivi militari che non mettano a rischio i civili. Quanto alle questioni economiche, il presidente francese ha confermato che il suo paese appoggerà la candidatura di Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea. Sul caso Parmalat, Berlusconi ha detto invece di non ritenere ostile l'OPA lanciata oggi da Lactalis. Il presidente del Consiglio ha detto anche che per l'Italia l'energia atomica è il futuro, il referendum l'avrebbe bloccata per anni e la moratoria è stata decisa dal governo solo per permettere all'opinione pubblica di tranquillizzarsi dopo Fukushima. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La lettera congiunta sull'immigrazione inviata dal premier Silvio Berlusconi e dal presidente francese Nicolas Sarkozy conforta la Commissione europea, lo ha affermato il portavoce Olivier Bailly, dopo che il gabinetto del presidente Josep Barroso e i servizi giuridici della commissaria europea Cecilia Malmström hanno esaminato il testo. E ora l'altro fronte caldo nei rapporti bilaterali Italia-Francia, quello economico. Ieri la francese Lactalis ha lanciato un'OPA totalitaria sul colosso alimentare italiano Parmalat. Sentiamo. È stata una Pasqua di lavoro per i vertici Lactalis che questa mattina, a poche ore dall'inizio del vertice Italia-Francia di Roma, hanno annunciato a sorpresa un'offerta pubblica volontaria sulla totalità delle azioni Parmalat. I francesi propongono agli azionisti 2,6 euro per azione, un prezzo che la società di Collecchio non vede in borsa dal luglio 2007 se si esclude una breve puntata lo scorso 18 marzo in piena bagarre per il controllo del gruppo alimentare. Lactalis, in poco più di un mese, ha acquistato il 29% del gruppo italiano spendendo 1,5 miliardi di euro e adesso è pronta a mettere sul piatto altri 3,4 miliardi grazie a un finanziamento bancario. Il presidente di Lactalis, Emmanuel Besnier, ha assicurato che Parmalat manterrà sede, organizzazione e testa in Italia, parole che hanno convinto anche i sindacati. Ora si attende di capire cosa farà la cordata italiana formata da banche, cassa depositi e prestiti. Per contrastare i francesi con una contropa dovrebbero trovare almeno 5 miliardi di euro, una cifra molto più elevata di quelle ipotizzate fino ad ora. L'alternativa è trovare un accordo fra la cordata italiana e Lactalis, come peraltro ha auspicato il premier Silvio Berlusconi nell'incontro bilaterale col presidente francese Sarkozy. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulla battaglia Lactalis-Parmalat sentiamo cosa ha detto Jean-Paul Fitoussi, docente di economia all'Istituto di Studi Politici di Parigi, nonché presidente dell'Osservatorio francese delle congiunture economiche. Lo ha intervistato Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Sono sicuro che l'Italia ha avuto certi compensi nell'accordo che è stato passato. Beh, compensi non ufficiali? No, ufficiali ma che non conosciamo, perché sono sicuro che ci saranno soci italiani nell'impresa che nascerà dalla fusione tra Lactalis e Parmalat, per esempio. Quindi lei è convinto che vi siano state delle garanzie di Sarkozy a Berlusconi? Sì, sono convinto, ma questo è... Però, mi scusi, però allora questo vuol dire che Sarkozy in qualche modo gestiva l'operazione Lactalis. Lei mi ha detto che nasceva per caso, no? No, è un gioco di influenza. Ah, ecco. solamente un gioco di influenza. Se le imprese non vogliono ascoltare, le imprese possono fare quello che gli pare. Ma mi dica un'ultima cosa, in verità, ma lei veramente pensa che Lactalis non abbia avvisato Sarkozy oggi che stava per lanciare un'OPA su Parmalat dopo tutte le tensioni anche politiche che questa aveva creato? Lei pensa che Non lo credo. E ascoltiamo ora i dettagli di questa OPA su Parmalat nella scheda. Il cuore del comunicato è tutto in questa frase. Lactalis intende fare di Parmalat il gruppo italiano di riferimento nel latte confezionato a livello mondiale, con sede, organizzazione e testa in Italia. Una dichiarazione di aperta italianità per accattivarsi il mercato concorrente. Il gruppo francese, che ha in mano poco meno del 29% di Collecchio, si imbarca in un'OPA totalitaria che vale oltre 3 miliardi di euro. 2,6 euro per ogni azione, un'offerta che incorpora un premio superiore al 21% rispetto al prezzo di borsa delle azioni Parmalat degli ultimi 12 mesi. Il progetto di crescita destinato a Collecchio è ambizioso, scrivono a Parigi. Se poi si considera che Lactalis, unito a Parmalat, potrebbe diventare il primo gruppo mondiale nei prodotti lattiero-caseari, si fa più chiaro il senso di questa ambizione. E dato che si può sempre fare meglio, i francesi fanno sapere che l'espansione in paesi come Brasile, India e Cina potrebbe essere meglio perseguita attraverso un intervento congiunto. La Commissione europea aveva chiesto più volte ai francesi di chiarire se la quota detenuta determinasse di fatto il controllo su Parmalat. La svolta di oggi è una risposta che arriva proprio nel giorno in cui la Cassa Depositi e Prestiti incontra le banche italiane per definire cordata e piano da mettere in campo contro Lactalis. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apriamo la pagina economica. La Grecia si è impegnata a raddoppiare gli sforzi per gestire il deficit di bilancio che Eurostat valuta al 10,5% del PIL sul 2010. La revisione a rialzo del deficit greco mette sotto ulteriore pressione il paese ellenico, che deve riuscire a tornare sul mercato dei capitali prima che i 110 miliardi del prestito d'emergenza dell'Unione Europea e dell'FMI si esauriscano alla fine del prossimo anno. Ora la borsa, chiusura positiva per Milano. Chiusura positiva per le borse europee dopo il lungo fine settimana di Pasqua e nell'attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi. Milano ha vantato la performance migliore, traendo vantaggio dalla volata di Parmalat, spinta dall'annuncio a sorpresa dell'OPA lanciata da Lactalis. Le azioni dell'azienda emiliana hanno messo a punto un rialzo del 10,7%, approssimandosi al prezzo offerto dal gruppo di Oltralpe di 2,6 euro. Dopo i conti trimestrali record di Ford è andato bene tutto il comparto auto europeo e a Milano Fiat S.p.A. ha segnato un progresso del 3,49%, forte ancora dell'annuncio che la propria presa su Chrysler salirà entro giugno il 46%. Pirelli, legata a doppio filo al settore auto, ha vantato un rialzo del 4%. Per contro, le banche hanno registrato un andamento contrastato, con le BPM che sono scivolate dell'1,47%, pagando ancora l'annuncio che la Popolare approverà un aumento di capitale fino a 1,2 miliardi di euro. Tra le azioni fuori dal paniere principale non si è arrestata la corsa delle Full Six, più 8,7%, sulla scommessa che l'azienda riceverà un maxi risarcimento dalla concorrente VPP. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. 25 anni dalla catastrofe di Chernobyl, anniversario che cade all'ombra dell'emergenza di Fukushima e di rinnovati timori sulla sicurezza dell'energia nucleare. Intanto prosegue la verifica ordinata dall'Unione Europea sui 143 impianti nucleari operativi nel continente. Venticinque rintocchi di campana a scandire gli anni, cupi e drammatici trascorsi dalla tragedia di Chernobyl, Ucraina, la più grande catastrofe della storia del nucleare civile. L'orologio segnava l'una, 23 minuti, 44 secondi quando esplose il reattore numero 4 della centrale. I sistemi di sicurezza erano staccati per un test che divenne fatale. Fu liberata radioattività tra i 50 e i 250 milioni di curie, una quantità circa 100 volte maggiore rispetto a quella delle bombe americane su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. A ricordare quella notte è il patriarca ortodosso di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, in una cerimonia cui hanno preso parte il presidente ucraino Yanukovych e quello russo Medvedev, mentre quello bielorusso, Lukashenko, sempre più lontano dalla comunità internazionale, lo ricorderà in patria. La nube radioattiva fuoriuscita dalla centrale infatti investì non solo l'Ucraina, ma soprattutto Bielorussia e Russia, per poi raggiungere il resto d'Europa. Un anniversario celebrato in tutto il mondo, stranamente, ma forse neanche troppo, ricordato meno dalla stampa ucraina che consultiamo online, nonostante la maxi conferenza organizzata a Kiev per trarre l'ennesimo bilancio della tragedia. A Mosca invece se ne parla tanto. Gli eventi di questi ultimi giorni ci insegnano che non ci si può rilassare, dice il presidente Medvedev, riferendosi alla centrale nucleare giapponese di Fukushima. Non dobbiamo chiuderci al progresso, ma dobbiamo puntare a standard di sicurezza sempre più alti. La Russia, aggiunge, si esprimerà al vertice G8 di maggio su iniziative concrete volte ad accrescere la responsabilità dei paesi che utilizzano l'energia atomica. Un'operazione trasparenza e responsabilità, insomma. La principale lezione di Chernobyl, sottolinea infatti Medvedev, è che bisogna dire la verità alla gente, diversamente da quanto accadde 20 anni fa. È una trasparenza che non tutti riconoscono al Giappone di oggi. I comitati per il no al nucleare italiani, ad esempio, oggi manifesteranno in memoria delle vittime di Chernobyl davanti all'ambasciata ucraina, ma anche davanti a quella giapponese. Vittorio Cogliati Dezza, portavoce dei comitati e presidente di Legambiente. Se si fa una ricostruzione delle azioni che sono seguite all'annuncio del disastro, ci troviamo con dei parallelismi drammatici, direi paradossali, se non ci fosse il dramma davanti. E anche Greenpeace a Roma ha accostato le due tragedie. L'energia nucleare è troppo pericolosa per avere un futuro, spiegano gli attivisti che hanno trasformato il Circo Massimo in un memoriale a cielo aperto, con 2000 croci a ricordare le vittime ucraine. Ancora Cogliati Dezza. I danni che si andranno a determinare nel corso delle prossime settimane e mesi poi saranno puntualmente registrati. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Un impiegato del gruppo telefonico francese France Telecom Orange di 57 anni si è suicidato dandosi fuoco nel parcheggio di una filiale della compagnia nei pressi di Bordeaux, nell'ovest del paese. Il caso rimanda all'inquietante catena di suicidi che ha segnato France Telecom tra il 2009 e il 2010. 35 dipendenti della compagnia telefonica si tolsero la vita tra il 2008 e il 2009 e altri 23 nel 2010. Conto alla rovescia a Londra per il matrimonio di William e Kate. Venerdì alle 11 la cerimonia e il pensiero va a un altro matrimonio e a un'altra principessa. Era mercoledì 29 luglio 1981. Kate Middleton non era ancora nata, ma quel matrimonio, quello di una giovanissima Lady Di, è il protagonista di queste ore, quasi quanto l'attesissima prossima cerimonia dell'altrettanto bella Kate, 9 anni in più della ventenne Diana Spencer, ma vicina a lei sotto alcuni aspetti. Come l'amore per la musica, quella che sentite è la canzone che George Michael ha dedicato agli sposi reali. Avrei voluto incontrarla, ha detto alla BBC Kate, in un'intervista dedicata anche all'inevitabile confronto con la suocera. La presenza di Diana comunque oggi c'è, è palpabile. Suo l'anello di fidanzamento che William ha dato a Kate, bluette come quello di Diana, l'abito dell'annuncio delle nozze. Ispirato a Diana anche l'abito nuziale scelto da Kate, di satenne pizzo, color avorio, con bottoni di perle e strascico di 3 metri. Sotto chiave a Clarence House, la residenza del principe Carlo, l'abito sarebbe, dicono i ben informati, proprio un omaggio alla suocera, senza il tripudio di volant con cui andò all'altare la principessa del popolo. It's about carving your own future. Adesso dobbiamo costruirci il nostro futuro, ha specificato in TV William. Nessuno pensa che Kate debba prendere il posto di mia madre. Annalita Lambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. Chiudiamo con lo sport. Calcio, Mario Balotelli è sempre più Super Mario, ma non stiamo parlando di risultati sportivi, è infatti un autentico recordman in fatto di multe. Il quotidiano The Sun ha quantificato in più di 11.000 euro quelle già pagate dal calciatore dal suo arrivo a Manchester 9 mesi fa. La sua vettura, una lussuosa Maserati, è stata portata via dal carro attrezzi già 27 volte. Il suo vizio, il divieto di sosta. E per gli appuntamenti di oggi, a Bruxelles la Camera di Commercio Italo-Belga organizza la conferenza Fare Business con gli italiani. Eurostat rende noti invece i nuovi ordini industriali di febbraio. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.